cari mobil per riempire questa stanza, ne è necessaria la mia presenza in questa stanza, sei inconfondibile in mezzo alla gente, quasi quasi mi confondo nel vederti qui davanti a me con gli occhi chiusi dentro ai miei. Corrente, nessuno riesce a capire il mio male, ma tu lo conosci bene, non sono qui io davanti a te. A dover pensare che vedranno altro che non sia te, mi abbandono ad un mondo di esseri umani, dove tu non ci sei, dove tu non sei. Gente, quasi quasi mi confondo nel vederti qui accanto.